Ma infatti, Alessandro, anche tu sei di corsa, perché sei arrivato qui da un posto dove poi anche ritornerai, ma queste sono sorprese che teniamo per la chiusura di trasmissione. E soprattutto sei ricchissimo di tutti i posti del mondo, dico bene? Possiamo dire anche che è alto. Sì, è alto in effetti. Sono alto e ricco. Non è una roba da niente. E Alessandro è arrivato qui da Reggio, perché a Reggio lui da tanti anni dirige il Reggio Film Festival. E qui di nuovo no, in realtà ancora non ce l'abbiamo. Un attimo, il 2. Va bene, subito. Vuole parlare anche lui con un microfono no, personale. Dicevo, a questo punto ci starebbe un bel e sti cazzi. No? Esti coxi, per favore, per favore. Siamo in fascia protetta. In ogni caso, il coxo va bene per tutte le occasioni, per tutti i sentimenti. E quindi, poi stiamo aspettando un altro ospite che adesso ha preso il 18 e arriverà. E poi forse ci sarà anche un altro ante ospite alla fine. È una carambata. Però stasera. Già diciamo che non avremo telefoniche. Cioè, come se qualcuno fregasse qualcosa che non abbiamo telefoniche, non lo so. Beh, a me personalmente. Anzi, in sì. realtà io posso fare un appello a Radio Città Fujiko: smettete di fare le telefoniche. Sei sempre così, com'è che si dice quando c'è rompi uno coglioni. rompi coxoni. Va bene, adesso Alessandro. E poi ve ne accorgete solo voi che sono telefoniche? No, se ne accorgono anche quelli che dopo un po' smettono di ascoltare perché non si sente niente. Dai, non fare così, che poi che dopo poi ci licenziano. ci coxia il capo poi. Esatto. No, comunque, prima che Alessandro si renda conto del programma in cui è atterrato e non decida di scappare via atterrato. Di nuovo. Perché magari forse non l'aveva mai ascoltato e... Infatti, funziona così. Tu gli dici vieni in radio e loro ti dicono sì. E sono fregati. Sì, esatto. Quindi benvenuto al Coxo. E questa puntata sarà dedicata alla 17ª edizione del Festival. Sì. Che sarà ricchissima di fortuna. Tanti altrove e anche tante altre attività. Assolutamente, sì. E adesso, visto che abbiamo fatto la nostra prima introduzione, metterei un brevissimo brano, giusto così, per provare anche i bassi. E che scegli tu, perché il nostro DJ deve ancora arrivare. Ah, quindi sveliamo che è un DJ. Ah, non l'avevamo già svelato? No, penso di no. Molto bene. E quando i numeri non sono opinioni, Stefano ha dato un numero a caso, ma in realtà era coxicamente correlato alla storia quinquennale ormai del nostro programma, perché effettivamente questo è il 240esimo Coxo. Wow. Che è dedicato interamente al Reggio Film Festival. Non interamente, aspetta, perché ho una telefonica. Prepara i microfoni Electronic Supersonic. Prepara i microfoni Electronic Supersonic. dice? Ho paura. Hai paura? Alessandro, fai bene ad Alessandro, avere paura. Tu hai paura? Ma arriverà in tempo, speriamo di no. C'è traffico a Bologna. Sì, c'era uno sciopero degli autobus. Esatto. Non sta arrivando in autobus, per cui speriamo in bene, magari prima o poi. Magari può essere ospite alla trasmissione dopo. Comunque noi abbiamo qui, vabbè, il mio ospite Alessandro Scigliutani, che per me, Fedra, è il super mega galattico ospite. Fai, ti distanzi da me? Non ho capito. Poi gli vogliamo bene anche a lui, quando arriva, se arriva. E vorrei concentrarmi, fin tanto che non arriva il tuo ospite, su qualcosa che mi interessa moltissimo, perché avere qui in studio il direttore artistico di un festival che ha resistito così tanto negli anni, che ha questa grandissima storia e che comunque è una macchina organizzativa estremamente importante e articolata, io voglio sfruttarlo il più possibile. Ecco, eccomi. Questo è lo sfruttamento. Era un flash. Corso spaziale, yeah. Ecco, bene. Sfruttalo. Sì, e altre lingue? No. E allora, come nasce special un coxer, yeah. Avrei voluto organizzare meglio la frase, ma a questo punto non posso altro che dire: come nasce un festival, e in particolare il Reggio Film Festival? Giusto, in effetti io sono artefice del festival sin dalla prima edizione, no? Una ventina d'anni fa io ero un filmmaker in erba, direi, che insieme ad altri amici ci dilettavamo nella realizzazione di corti, no? Facevamo delle cose, non so, voi avete un personaggio illustre in questo senso, il grande Mauro Mingardi, per esempio, no? Che faceva molto prima di noi, negli anni 50, fine anni 50, anni 60, faceva dei western senza cavalli, no? C'è un film che è stato fatto proprio sempre qui a Bologna. E noi anche ci divertivamo e alla domenica facevamo dei corti. Dai, qual è stato il primo? Un western. E poi un fantascienza coxoidale, assolutamente. Ah, davvero? Sì, sì. Anche voi avevate uno Spock da qualche parte? Con la stagnola in testa, esatto. Oh, fantastico. Stagnole, c'è un archivio di queste cose, spero. Sì, sì, assolutamente. Prima edizione del festival, come è nata? È nata perché appunto l'allora personaggio che faceva parte del cineclub di Reggio Emilia ci ha visto e ha detto: siete fantastici. Ha detto: tomò! Tieni, ci ha dato in mano lo scettro del cineclub. C'era un piccolo concorso a Reggio Emilia che si chiamava 3 minuti di, e quindi noi ce lo siamo trovati in mano a 20 anni senza sapere bene cosa fare. Ma no? Quest'uomo ha veramente sconvolto la realtà alla fine, ha messo in plan air un esperimento, non lo so, verrebbe da dire nucleare, ma forse un po' troppo. Mi immagino tutte le pozioni, le alchimie di queste teste che hanno la possibilità di agire nella realtà. Semplicemente scappato e si è lasciato in mano il festival. Ok, ma si può contattare, magari il prossimo Cox lo facciamo con lui, per andare ancora alle origini delle origini. Alle origini delle origini, e poi torniamo indietro nel tempo fino alla preistoria. Tutto ciò è molto coxico, mi piace. Che bello. Comunque, il mio ospite. 333-180-94-94 se volete intervenire dicendo coxate su WhatsApp o su SMS. Bene, a questo punto quindi il concorso, che era un piccolo concorso locale, preso in mano dal sottoscritto e da un manipolo di eroi, è diventato un festival, perché ci siamo resi conto che a Reggio Emilia c'era un'attenzione verso il cortometraggio, ma il cinema in generale, che travalicava l'idea del corto amatoriale, ma voleva essere qualcosa di diverso. Questa prima edizione, quindi, quanto è durata? Che tipo di audiovisivi presentava? È strano, no? C'erano i VHS. Oh, che bei ricordi! C'erano i mini DV. La nuova tecnologia! C'era il beta. C'era la pellicola. C'era qualcuno che ce lo mandò in pellicola, pensa. Quanti giorni durava la prima edizione? 3. E avevate tutti questi tipi di formati diversi che necessitavano di macchinari diversi. Disastro totale. Meraviglioso. Quanti eravate? Eravamo 7-8 persone in tutto. Non nella sala, la sala era piena, eravamo da organizzare i 7. Ah, beh, sì, certo. Era quello. Io mi faccio il VHS, ok, io mi faccio la pellicola. Tu a cosa ti dedicavi in quegli albori? No, beh, ero comunque il direttore artistico e quindi insomma abbiamo selezionato. Partito direttore, rimasto coerente. Fedele alla linea. Sì. E devo dire che sei stato fedele in maniera costruttiva, visto che siamo arrivati alla 17ª edizione. E appunto, come dicevi all'inizio, arrivano cose da ogni parte del mondo, ma quasi da subito, sai, dalla sì? quinta edizione è diventata subito internazionale. Dai, se possibile, un breve excursus delle tappe fondamentali di questi 17 anni. Ma appunto, abbiamo cominciato e proprio abbiamo visto cambiare, no? È proprio stato interessante. Intanto è una cosa, è un'esperienza formativa straordinaria e formidabile, io la consiglio a tutti davvero. Chi vuol fare un minimo di cinema o anche di radio forse, non lo so. Dovrebbe secondo me guardarsi un sacco di corti, no? È una cosa pazzesca, perché in poco tempo riesci a spaziare da una un'atmosfera all'altra e nello stesso tempo a formarti, a credere, a capire modi diversi anche di esprimere le stesse cose. Ed infatti l'elemento formativo in realtà è ben presente anche all'interno della programmazione di quest'anno, però questo poi lo svilupperemo più avanti, intanto non ho resistito da fare questo link. Sì, la formazione è importante ed è anche la formazione che tu hai guardando. Sì, sono cambiate tante cose, perché poi è arrivato proprio lì, comunque noi abbiamo cominciato nel 2001, Odissea nello spazio, ma wow. Comunque sostanzialmente era il momento del cambiamento totale, perché lì è arrivato il digitale, che da lì a poco avrebbe sconvolto completamente il modo di fare cinema sostanzialmente, perché adesso è chiaro, no? Oggi parliamo di nostalgici della pellicola, però oggi fare cinema lo si fa tutti nello stesso modo, tutti usano lo stesso strumento. No, sì, beh, ok. Parlo di tutti nello stesso modo, non in termini di stile di standard, o di piatto, ma parlo di strumenti di utilizzo. Mm-hmm. Quindi questo è. E infatti adesso fondamentalmente tutto arriva in questi meravigliosi files. tutti a 4K sono. Qual è lo standard adesso? Lo standard oscilla fra il 4K e il sì. Full HD 2K. Qualche vecchio romantico? Ma c'è qualcuno che magari ci mette le righe posticce nei film per sembrare ma tipo un super qualche 8. Cosa esatto, digital 8, queste formati. Cioè nessuno fa più niente in analogico adesso? Ma sai, secondo me c'è un po' questo passaggio indiscutibile dal mio punto di vista. Cioè noi abbiamo avuto un oiato di 20 anni, no? Dagli anni 80 fino al 2000 proprio, che era veramente un non mondo, no? Un mondo, il magnetico, il nastro magnetico ha un po' distrutto tutto, perché appunto negli anni 70 c'era questo bellissimo Super 8 che aveva comunque un colore magnifico. Che no? Te le vedevi proprio le immaginine, no? Esatto. E poi però è arrivato questo piattume del magnetico marroncino oppure grigiotto. No, però io vedo i ventenni che lo usano comunque con il ritorno, no? Il ritorno, cioè, no? Ah, il Super 8, dici, le Polaroid. No, il digitale, il digitale, no, filtrato. No, il magnetico. Io lì sono i nastri magnetici. Perché noi siamo vecchi. E dove li trovano questi nastri magnetici? No, fanno ci sono i filtrini per fingere di avere, okay, che ne so, il video, okay, che balla, ste robe qua. Blair Witch Project. Io che, esatto, sì, io però che sono un po' nostalgici anche di questo, cioè per loro è un vintage come per noi il Super 8, secondo me. Io poi ne so qualcosa, perché comunque tu sei una ventenne. No, io sono nostalgica, legata, nata e cresciuta in quel periodo, e le mie cosine quando faccio le performance le faccio ancora col digital 8, e riuscire a trovare una cassettina, a parte trovarla, wow, ma gli scasci giù decine di euro per una cassettina da 60 che all'epoca pagavi. Ma la domanda pagavi è perché filmi ancora in digital 8? Ma perché io ho una super mega... No, non ve lo dico. Non ve lo dico. Ci vergogno. Non ve lo dico. Sono un attimo di timidezza. Invece qui, sì, fra l'altro tu mi sa che te ne potresti essere accorto da tempo, ma noi stiamo andando avanti a parlare troppo, perché io mi sto appassionando, sto continuando a spremere il mio ospite preferito. È il nostro DJ, non ha via. Mi ha scritto no, un minuto. Ed è il tempo tecnico per mettere un altro brano, giusto? E vabbè, se non lo sai tu che sei la tecnica della trasmissione, sicuramente non lo so io. Siccome sentire il pezzo di Prince prima mi è venuta nostalgia, fa brutto, se ne metto un altro. Sì. E quindi lo facciamo. Anche perché io sono completamente impreparato, per cui allora, no, in realtà un pezzo ce l'avrei se proprio non vuoi mettere Prince, ma tanto intanto, so che tu vuoi mettere Prince, per cui sentiamo Prince. Che cosa o se ci no fai potremmo mettere Prince? Questo dedicato appunto al direttore artistico di un festival così importante. Bene. Si intitola Compliments. Grazie. I'm sick of performing and not getting compliments. Look at me now, washing the dishes, not getting a compliment. Making the dinner without being told it. If I had not did it, I would have been scolded. I am working here like a chef. Where's my compliment, woman? Are you deaf? Give me compliments. Why is my impressiveness written off like as it was of course a ness? This is importantness. Give me answer or compliment. You choose. Give me compliments. I said I give me compliments. Give me compliments. I said I give me compliments. Maybe my compliments is under here. No, no compliments here either. Taking out the trash. No compliments. Respecting trafficking rules. No compliments. Got to work on time. No compliments. And I dressed myself today. No freaking compliments. Every day I do chores like a donkey. There is the applause like the circus monkeys get. It's not fair, I'm doing my best. Look at that child being rewarded with a breast. Give me compliments. I said I give me compliments. Bitte schnell. Give me compliments. I said I give me compliments. Bitte schnell. Not giving away compliments, Avi. Jawohl, typical. Where is my great job? Where is my good work? Where is my pat on the head? Where is my, oh my god, you are the most impressive human being I have ever met. Point being, where is my compliment? Schnell, bitte, bitte, schnell, bitte, bitte, schnell. Schnell, bitte, bitte, bitte, compliments, schnell. Give me compliments, I said I give me compliments. Give me compliments. Give me compliments, I said I give me compliments. Where's my compliments? Give me compliments, I said I give me compliments. No, give me compliments. Give me compliments, I said I give me compliments. Please help me, I'm starving for compliments. Hey, redesign, you schnitzel, I want compliments, not money. Oh, sorry, you have a nice turtleneck. What, or me? Oh, thank you, it's really kind of, I just threw something on this morning, nothing special. Thank you, I mean, I'm really bad with compliments, but thank you. Anche io sono, non sono molto brava a fare complimenti, ma complimenti Alessandro Scillitani, direttore artistico del Reggio Film Festival. Strano perché qui io una gaffe o la devo fare in tutta la puntata, non è ancora capitata, chissà quando e dove capiterà. È il bello della sorpresa. Infatti stanno tutti fremendo, immagino. L'ultima volta che sono stata in diretta, come annunciando l'ospite, e l'ho chiamato nel modo sbagliato, ti ricordi? Collectivet, yeah. Ok, e bene, bentornato con noi Stefano, meraviglioso. Stai cominciando a diventare tu stesso la vocina di Google Translate. Esatto. E tanto per cambiare, magari so che tu hai delle curiosità nei confronti, perché è rarissimo che Stefano manifesti interesse curiosità. Nei confronti Vero. Degli ospiti che delle nostre trasmissioni. E invece questa volta c'è. Appunto. No, infatti lasciamolo mi chiedevo, esprimere. Esprimiti. Come si organizza il programma di un festival di cinema? Allora, intanto il cinema, la settima arte, include tutte le altre arti. E quindi il festival, come sempre, si popola di tanti altri eventi. Calma, sei davanti a un artista visivo, eh? Quindi? E quindi include tutte le altre arti, insomma. Certo, le puoi filmare. Quindi, eccolo. Oh, è arrivato DJ Fede Cortellazzo. Ciao. Benvenuto. Rock and roll. Allora, Basta con le chiamate. Per ok, dire. Allora intanto okay. Che voi dialogate, io mi metto d'accordo con il DJ, ci vediamo tra poco. Come ti ciao. Sì, no, noi continuiamo a dire andate? Scusa. Vanno. Fingono di essere. È una trasmissione così. Dicevamo, come addirittura chiude la porta. Incredibile. Come si fa a decidere il programma di un film festival? Allora, intanto. Appunto, come dicevo, il programma tiene conto, diciamo, di diversi indirizzi, no? Quindi ci sono tavole rotonde, incontri, sia con personaggi che hanno a che fare col cinema, sia con musicisti. Abbiamo una collaborazione che dura da tantissimi anni con la Fondazione della Danza Ater Balletto, che è un fuori al fiore l'occhiello di Reggio Emilia. E poi, appunto, si tratta di tessere dei fili. Quest'anno il tema principale, portante, è quello dello specchio nel mondo. Poi lo specchio di per sé è un tema molto cinematografico, ma noi abbiamo pensato quest'anno di rivolgersi soprattutto a un tema forte, che è quello appunto dell'interculturale, del dialogo, che è un tema se vogliamo, tanto inflazionato ma nello stesso tempo tanto duro, tanto difficile. Noi in un certo senso siamo pieni di questo tema da sempre, perché essendo un festival internazionale di fatto non è un tema nuovo per noi, noi che facciamo creatività raccogliamo sostanzialmente opere che arrivano da ogni parte del mondo. Abbiamo però voluto dare maggiore attenzione al fatto che comunque la cosa bella, la cosa forte di un festival come il nostro è proprio quello di venire a conoscere un'altra parte di mondo, stando comodamente dentro una sala cinematografica. E quindi ci saranno tanti contributi che arrivano e guarderemo appunto con attenzione a cosa ci hanno portato gli altri mondi. Ma dunque voi fate un open call o come funziona? Se io volessi domani partecipare con il mio film al Reggio Film Festival, c'è un bando, sono arrivate praticamente 1700 opere quest'anno. E arrivano attraverso appunto internet, c'è un bando online. Sì, non arrivano più le pizze. Anche quello che dicevo per prima, posta, adesso, no? Esatto, arrivavano le pizze per posta. Infatti, adesso niente più per posta fisica, tutto online, è molto comodo. Certo. E devo dire che la gente ha iscritto opere che hanno la prima mondiale nel nostro festival. Ecco, questo è importante. E questo dà l'idea appunto, perché noi comunque abbiamo sempre rivolto il nostro festival a un pubblico, non tanto agli addetti ai lavori, che per carità, ma noi siamo convinti che il cinema sia bello da vedere al cinema, nello stesso tempo che vada fruito da un pubblico. E questo aspetto mi è particolarmente caro, sono tornata. Bene, già? Sì, sono già tornata, qui al Cox si va veloci, soprattutto alla 240esima puntata, che è tutta una corsa, e gente che appare, persone che scompaiono, non gente si che sa, fa le cose, non si capisce perché, aspetta che vi fotografo perché siete bellissimi. Allora, sono maggiorenne, dai, sono maggiorenne. Intanto che io ripiglio un attimo il discorso con Alessandro, informo tecnicamente il mio co-conduttore preferito, ecco, Stefano Dabbio Pasquini, che si rilassa dalla parte degli ospiti. Il suo ospite ha bisogno di un microfono e quindi quel microfono glielo dovrà dare e tu dovrai condividere. Molto bene. Oh, elettronico, mi dai il gelato. Tieni il gelato, Fede. Ok, ritornando a noi. Spessonica. Ciao Stefano. Passalo subito. ragazzi, sono arrivato adesso perché... Lo vuoi introdurre? Lo introduco, DJ Fede Cortellazzo, che abbiamo avuto rock and roll. Tre o DJ quattro Fede. Settimane fa, non mi ricordo più, tre settimane fa, e stavolta ha portato la musica. Finalmente. Forse. Perché mi ha chiesto solo un microfono. Ah, ok. No, adesso è gelato, adesso devo mettere il device. Ah, ok, pure il device, molto bene. Allora, un gecchino ce l'abbiamo lì dalla console. Ce l'abbiamo qui, vai. Metti il device e il microfono? Io tengo gelato. Beh, sì, perché poi allora facciamo così: ha solo due. Intanto che si sistema il device, io continuo la mia chiacchierata con Alessandro. No, anche perché stavamo dicendo delle cose importanti. Importanti ed interessanti. Con gentilmente rock and roll, Fede. Scusate del ritardo, però ringrazio l'ospite. Che... Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Siete quasi vicini di casa. Lui è di Reggio, tu di Modena. Allora vi odiate già. No, il Ducato. No, Ducato di Modena. Io direi Forza Reggio, dai. E io dico Forza Modena, dai. Dai, che bello, galanti, meravigliosi, sportivi, ci piace. Poi fuori dalla porta. Ma la secchia. Li lasciamo chiusi qui dentro, che tanto è ammortizzato. La secchia ce la teniamo noi, no? Com'è? Sempre ad andare lì a mettere le cosine, a fare il coxino. A fare il coxino. Allora, Alessandro, in che modo dedicare una programmazione ad un proprio pubblico? Perché soprattutto con il cinema si tratta di una questione importante, essendo per antonomasia il primo prodotto broadcasting. Sì, beh certo, l'idea è quella che esista un pubblico che apprezza l'idea di venire al cinema a vedere le cose. E questo, il nostro compito sicuramente è quello di offrire un programma interessante, no? In fondo... appunto oggi fra Netflix, YouTube e tutti i canali possibili su internet, in fondo tu puoi fare il tuo programma di cortometraggio di cinema direttamente a casa. Ma quello che noi proponiamo è una scelta, no? Qualcosa che deriva da una raccolta di opere, perché c'è un tema, appunto lo specchio del mondo, come dicevamo, ma c'è anche lo spazio libero, c'è la possibilità di affacciarsi a un mondo che è mutuato e filtrato dalla nostra selezione, dal nostro lavoro di scelta di opere. Io ti chiedo scusa, ma ero distratta un attimo che stavo sistemando la tecnica per il nostro secondo ospite, e avete già parlato della programmazione? No. Ah, ok, ma allora sono fortunata, sono tornata in tempo. Sei tornata in tempo. La programmazione appunto prevede una serie di cortometraggi, i luoghi del festival sono tanti, quelli principali sono il Cinema Rosbad, il Teatro San Prospero e la libreria Punto Einaudi Strand. Perché quest'anno abbiamo in libreria, abbiamo diversi incontri con gli autori, culmineremo con l'incontro con Maurizio De Giovanni e Diego De Silva, ma abbiamo tanti incontri con gli autori. Apriremo in libreria con un grande mago degli effetti speciali che arriva direttamente da Hollywood. Wow, gli effetti speciali in libreria. Avatar. No. Jurassic Park. No, e porta anche un dinosauro. Terminator. Ma quello fa un po' paura. Lui era dentro al Velociraptor. Pensa. Ma dai. Si chiama John Rosengrant ed era lui, ci sono le foto su internet, lo trovate, che è lì che si mette il costume da Velociraptor. E se lo porta anche in libreria? Speriamo. Dai, ti prego. Non so se glielo fanno portare in aereo. Effettivamente. Ma poi a me verrebbe a questo punto da chiedere quanto costa un festival, però magari si avanza tempo. Oppure alla puntata dopo, in post festival. Lui verrà insieme tra l'altro alla produttrice di Criminal Minds, e quindi qui noi stiamo già cominciando a parlare di qualcosa che inerisce anche, che si sfocia anche poi nella formazione, ma in realtà in tutta questa costellazione di eventi che aiutano a dialogare maggiormente il media broadcasting, a misurarlo, a dialogarlo, a renderlo di nuovo un luogo sociale, perché ovviamente se da un punto di vista della scelta tu a casa tua puoi farti la tua collezione, vedere quello che vuoi, quello che manca è proprio la dimensione sociale, la grandezza di uno schermo, la condivisione, il fatto di incontrare un pubblico, anche se tu diventi autore, la possibilità di... E allora, ok, quella lì è l'evento inaugurale, sì. Mi immagino. Sì, la prima giornata. Poi cos'altro c'è in questa settimana? È più di una settimana, giusto? Sì, sono 10 giorni circa. Ecco. Beh, abbiamo un incontro con Rezza Mastrella, che hanno appena vinto il Leone d'Oro alla carriera nel teatro. Giusto per non farci mancare nulla. E loro ci portano i loro corti, ci raccontano un po' della loro parte da filmmaking. Poi avremo Alessandro Ronadio, regista di Io C'è, che sul tema dello specchio, a parte questo film con Edoardo Leo, che parla un po' appunto anche del rapporto nostro, diciamo, con la religione, ma anche con noi stessi, Io C'è, per quello. Ma poi soprattutto lui ha fatto una lunga ricerca su Cronenberg, che con il doppio, David Cronenberg, con lo specchio, che è il tema del festival, ha avuto molto a che fare. Però avremo poi le sorelle Marinetti, per esempio. Simpatiche loro. Anche Rezza, ovviamente. E poi abbiamo il Cinebus. Che cos'è il Cinebus? Cos'è? Il mitico Cinebus del Teatro dell'Orsa è un autobus che attraversa le vie della città e intanto racconta storie di cinema, dei cinema perduti, dei cinema che rimangono, dei cinema che vorremmo. Proprio delle sale che ci sono in città? Sì. Meraviglioso. Sì. Wow. E tutto si chiude con un rito collettivo davanti al teatro della città. Rock and roll. Tutti a ballare sulle note di 8:30 di Fellini. Meraviglioso. A poco, questo punto musicale io chiederei al nostro, a questo punto è il vocalist della puntata, al nostro rock and roll DJ, sì. Tanto se per caso rapper, se parla tra poco, ci può agevolare un brano. Occhio che devi alzare CD1. Devi alzare CD1 tu, Fedra, che sì, sei alla regia. Lo sto alzando, però. Molto bene, però non parte. Cosa succede? Rock and roll. E quindi In questo caso stiamo facendo un sound check, gentilmente, anche noi facciamo il sound check ogni volta. Anche quando c'è il pomeriggio facciamo il sound check. Io quando mi alzo faccio il sound check, cioè, esempio, io mi alzo alle Facci sound check. A che ora ti svegli, Fede? Quando è giusto. Ah. E fai il sound check, giusto? Sì, appena sono le 8:15, io mi sveglio prima della sveglia, perché anticipo la sveglia, perché ormai sono biologicamente sono preparato. E fai il sound check. Assolutamente. Della sveglia. Ma in tutto ciò... Il brano lo metto io o lo metti tu? No, infatti. Dopo parte. E allora io vado con quello che vi ho detto prima. Fatto. Rock and roll. Allora il sound check è fallito miseramente. Beh, non devo fare il sound check. Piace mettere, abbassare il volume al pezzo di Prince, ce lo teniamo di sottofondo, perché in realtà questa 240esima puntata di Coxo Spaziale è ricchissima, corre, e siamo già qui da 20 minuti a spremere Alessandro Scilitani, il direttore artistico del festival del Reggio Film Festival. Grazie, scusami. E quindi io non posso dedicare 5 minuti alla musica, perché ho bisogno di continuare a chiederti cose. Eccomi, quindi, io sono qui, spremimi. Si parlava di presentazione. Allora, dicevamo che il cinema, noi siamo per lo più un festival di cortometraggi, ma in realtà siamo di fatto un festival di cinema, quindi avremo un grande appuntamento, nel senso che al Cinema Rosbad il mercoledì 14 novembre presenteremo il film Cosa dirà la gente, che è candidato per la Norvegia agli Oscar del 2019, insomma. Ecco, questo film, noi teniamo molto a questo film proprio perché è all'interno di quel sottotema importante di cui parlavamo, cioè del tema del dialogo interculturale. Mm-hmm. E questo film è un film di una norvegio-pakistana, Ira Mack, che interverrà al Reggio Film Festival, ed è praticamente la storia, appunto, una di quelle storie che abbiamo sentito tante volte, purtroppo, di rapimenti delle famiglie che portano le donne, appunto le ragazze giovani, in Pakistan, perché hanno contravvenuto, diciamo, alle regole, sono state troppo occidentalizzate. Ecco, c'è questo tema controverso che è autobiografico per la regista, e credo che sia molto interessante sentire, vedere questo film e poi sentire anche due parole da lei. Curiosità tecnica, poi ritorniamo, che mi farebbe piacere mi facessi un po' un excursus di quelle che sono le pellicole che, insomma, su cui potremmo soffermarci un pochino per i prossimi minuti. E, come avviene l'invito e poi quindi l'inserimento di una pellicola in un festival? Vabbè, sono due cose diverse, nel senso, nel nostro caso il festival è come concorso. È un festival di cortometraggi, quindi noi facciamo una call aperta a tutti. Una volta davvero, appunto, usavamo la carta, mandavamo proprio degli inviti fisici. Ora, ormai da un po' di tempo a questa parte, è un discorso di mail, è un discorso che è legato a internet, ai social. Per cui i filmmaker e le case di produzione in particolare vengono a scoprire che c'è il festival e si iscrivono. E come dicevo prima, molto spesso mandano proprio opere mirando il Reggio Film Festival e scegliendo di presentare la loro opera lì. E poi, dopo 17 anni siete diventati anche un pochino un'istituzione. Sì, sì, devo dire che di questo sono molto felice. Poi certo, invece, ci sono gli altri eventi, appunto i lungometraggi appartengono a questa categoria. Noi stessi possiamo invitare anche dei filmmaker che realizzano corti, nel senso che fanno parte poi magari dei nostri ospiti, appunto, siccome c'è anche questo grande progetto formativo di cui poi magari parleremo. C'è anche l'idea di chiamare magari una casa di produzione o un regista che possa venire a raccontare la sua esperienza per trasmetterla, insomma, per parlare anche un po' di più rispetto soltanto alla visione. Parliamo proprio di questo adesso. Sì. Beh, noi da diversi anni, già il terzo anno, abbiamo per esempio un workshop per la realizzazione di un cortometraggio. E il primo weekend, cioè bisogna chiaramente iscriversi, ma ci sono tutti i dati appunto sul sito del Reggio Film Festival. Quindi le iscrizioni sono già aperte adesso a questi workshop? Sì, bisogna anche sbrigarsi perché ormai stanno finendo le... Più o meno quanti posti ci sono? Beh, 15. Facciamo un po' un excursus di quelli che sono. Allora, 5, come realizzare un cortometraggio condotto da Ado Zanovic, un regista di origine bosniaca che ha fatto il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, molto bravo. Devo dire che riesce veramente in pochissimo tempo a realizzare un'opera. I ragazzi che hanno frequentato gli scorsi anni hanno avuto proprio l'occasione di sperimentare tutto il percorso, diciamo. E dopo la parte di montaggio la fanno con me, devo dire, perché se no non faremmo in tempo. E praticamente, poi c'è il casting, certo, no? E questa è una cosa a parte, che loro, chi partecipa al workshop potrà partecipare a un vero e proprio casting aperto alla gente, che poi diventeranno loro attori, insomma, gli attori li scegliamo. Quindi ho capito, ci sarà un casting aperto a chi vuole e loro che partecipano saranno dall'altra parte del casting. Esattamente. Acquisendo la visione critica del, esatto, perché e per come scegliere un carattere anziché un altro nel volto di una persona. Proprio così. E quindi la comune gente. Quanti posti ci sono per questo? 15. Ci sono 15 posti. E poi, appunto, invece, per partecipare al casting, chi vuole, il sabato mattina alla libreria alle 10. Stefano, ci andiamo a fare il casting? Sì, dai, solo se viene con me anche DJ Cortellato. Beh, tanto è già lì a metà strada. Infatti te lo carichi, te lo carico sulla groppa. No, vabbè, sulla tua macchina familiare, la Coxo Mobile. La Coxo Mobile, no, io dovrei venire a fare qualche workshop di editing. Ti serve un assistente, Alessandro? Certo. Il piccolo Stefano W. Pasquini. Assolutamente, me lo porto in spalla. Che programma usate? Il cinema che programma usa per fare editing? Premiere, Avid, adesso molto Premiere o Final Cut si usano, sì. Avid meno. Da dopo il 10 è Premiere per lo più. Tutti quasi ormai usano Premiere, ma anche a livelli alti. Mi trovavo tanto bene col Final Cut 7, guarda, ma proprio aspettavo la prossima versione. Ma è caduto così in basso. Io mi trovavo bene con Sound 4, no, come si chiama? Sony Va bene, Vegas Pro. Stefano... Adesso c'è il Da Vinci, però, è vero, c'è anche il Da Vinci, che lo regalano, pensa a te. Cerchilo, te lo regalo. Ritorniamo. Gli altri workshop, sì. Instant, un workshop dedicato agli aspiranti sceneggiatori, saranno invitati a partecipare a un pitch. Praticamente ci saranno Filippo Calomenidis, Alice Rotirotti e Giacomo Durzi, che è un uomo Sky, e praticamente loro prenderanno queste sceneggiature e le guideranno un po' per vedere poi se c'è qualcosa di buono, insomma, ecco. E quindi prima e se lei... c'è qualcosa di buono, poi cosa succede? Ah, chi lo sa, magari viene preso, chi lo sa, speriamo, insomma, è una cosa. Terzo workshop, per questo quanti posti? Per questo ce ne sono una ventina, ecco, più o meno, sì. Ok. E, dopodiché, invece, le luci LED nel cinema, in realtà è un workshop aperto, perché non c'è nessun pagamento. E praticamente vediamo appunto l'uso delle luci con i LED, no? Adesso ci sono queste luci fredde, no? Però sono diverse. Sì, sì, sì. Questo... quanti posti? È aperto. Allora se è gratis ci posso andare anch'io. Ah, esatto. Ma allora. Anzi, ti paghiamo se vieni. Ah, davvero? Allora vengo. Quando è? Scusa. È il giovedì 15 novembre. Quindi questi workshop di cui siamo arrivati a descrivere il terzo, ce ne mancano ancora due. Sì. Allora la domanda sulle tempistiche te la faccio dopo. Quindi okay. Continuiamo. Quello dei LED ci vengo. Perfetto. Poi c'è il cinema Il Doppio, proprio il cuore del festival, Mirror. Mm-hmm. Avete parlato del titolo del festival mentre ero distratta specchio, io. Specchio del mondo. Mirror. Specchio bene. Delle mie brame. Mi compiaccio, Stefano, caro W. Allora, in realtà sto mentendo, ma va bene. Il cinema Il Doppio è una lezione di cinema tenuta da Mauro Gervasini al Cinema Rosbad. Al Cinema Rosbad abitualmente vengono tenute delle lezioni, in questo caso questa viene fatta in collaborazione, proprio perché poi Mauro Gervasini sarà membro della giuria del Reggio Film Festival e quindi lui ci farà questa lezione e poi il giorno dopo proclamerà il vincitore, diciamo, dell'edizione insieme al resto della giuria. Nella giuria c'è anche Cristiano Travaglioli, che è montatore Oscar, premio Oscar con La Grande Bellezza. Lui ha montato quel film. Wow. Ma un altro ne manca. E poi c'è un per aspiranti. Che tu mi distrai con queste. Mi tornano in mente questi film meravigliosi, mi distrai, poi, ma non perdo il filo del discorso. Andiamo con l'ultimo. Sono io che lo perdo, ma. Sì. Allora, Al Limite è praticamente un laboratorio di passo 1. Presente quella tecnica, certo, attraverso, certo, cui fare l'animazione. Stop motion. Con i pupazzetti? Con i pupazzetti. La plastilina? Esattamente. Ma che meraviglia! Glielo devo dire alla Sonia, lì ci viene la Sonia. Ecco, Sonia, vieni al workshop. Ma allora, quindi adesso che abbiamo fatto un po' una traversata dei workshop, leggevo nel CS che sono comunque... Cos'è il CS? Comunicato stampa. Ho provato a farlo un po' di fantasia. Si va di acronimi qua nel contemporaneo. Stefano, non fare quella faccia. Io non ho mai sentito nessuno chiamare un comunicato stampa CS. Io tanti. Per iscritto, ma in radio CS. Ma dai. CS. Vabbè, qua si svelano i lessici del tecnico e quindi aspettate un attimo. Sì. Abbiamo trovato il brano? Abbiamo trovato il brano. Ok, va bene, ce li abbiamo. Perché ricordiamoci che manca poi qualcos'altro anche. Sì, sì. Ah, cavoli, no, scusami un attimo. Lo faccio io? No, aspetta, ce l'ho qua. Ah. Stop con le chiamate. Sì, stop con le chiamate, mi raccomando, messaggini. L'angolo della menzione. Basta. Domenica 28 ottobre alle ore 17, il pianto e l'abbandono. Ancora, concerto nell'ambito del Festival Internazionale della Storia con Mara Gaudenfic, mezzo soprano, Angelo Testori, violino e concertatore. E l'ensemble barocca La Coq, fantastico, con musica di Purcell, Gluck, Tartini e Haydn. Questo è domenica 28 alle ore 17, ingresso ad offerta libera all'Istituto di Cultura Germanica in via De Marchi 4 a Bologna. E la seconda menzione è sempre nello stesso posto, però stavolta è martedì 30 ottobre alle ore 17 tra Parigi e Berlino. Il futuro della politica, il futuro dell'Europa. Hai detto niente. Questa è la sala conferenza Nomisma in strada Maggiore 44 a Bologna. L'incontro prende spunto dalla pubblicazione del numero monografico della rivista di Politica 2 2018 dedicato al tema Tra Germania e Francia, le trasformazioni della politica democratica e il futuro dell'Europa, con Marco da Milano, Angelo Panebianco e Paolo Pombeni. Bene, a questo trovate punto trovate tutto su www.coxospaziale.blogspot.com domani. Benissimo, bravo Pasquini. Grazie. In velocità, veloce. Prima del brano del nostro secondo ospite. Perché sono poi pronto. Abbiamo un terzo ospite. Ma appunto, ma mi svegli tutte le sorprese. Qua, allora, le caratteristiche di questi workshop sono che sono molto intensivi, giusto? Sì, sono workshop proprio pensati solo durante il festival, per cui insomma quello del cortometraggio è quello che dura di più, dura 3 giorni, dal venerdì alla domenica. Mentre altri sono proprio solo di un giorno, come Instant, però l'arbate si chiama Instant per qualche motivo. Nome omen. Ecco, io cosa direi? Anche le. Sì? A cui dovrebbero entrare in questo discorso, in questo ambito? Tu fai un workshop da 3 o da 1 giorno, da 4? La sta dicendo, io ti ringrazio, siamo veramente agli sgoccioli, anche perché quindi sempre andiamo da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, tutti i link per andare a vedere anche le durate. Intanto andiamo con il brano del nostro secondo ospite della 240esima puntata di Cox Spaziale. Rock and roll. Quarantesima puntata del Coxo è così pregna che non ce la si fa, bisogna sfumare i brani purtroppo. Però sono contentissima di annunciarvi il nostro ultimissimo ospite a sorpresa. Ciao, eccolo. No. Tu dimmi se uno deve venire da Modena. Eccola. Per il Real Parson Project. Ve lo faccio risentire. Tu dimmi se uno deve venire da Modena per mettere Alan Parson Project. E questa che sentirete tra pochissimo, che vi dirà In autonomia il suo nome è una voce che già dalla settimana scorsa è diventata una voce fujikika. Due settimane. Mm-hmm. Sì, diciamo che la io so il nome ma non il cognome. Allora sì, infatti lei l'ha dimenticato dopo due secondi, ma ti rendo conto io ho il neurone fragile a quest'ora della giornata. Allora, io sono Claudia, Mighty Mau è il mio nome di battaglia da DJ, metto musica a Bologna dal 96. Ho fatto la trasmissione, la mia trasmissione Mighty FM su Radio Kairos al TPO dal 2010 per 9 stagioni, e adesso sono stata venduta, tipo il mio procuratore Flavia Tommasini del TPO mi ha venduto a Alessandro. Ma il tesserino ce l'abbiamo noi, non lo so, adesso me l'hanno sequestrato, sai un po' come fanno con le straniere, quelle che pallavolo, tengono i passaporti per non farli. E comunque la cosa meravigliosa per cui Claudia è qui è che da questa puntata, dalla prossima, appena finirà il Cox che sta finendo, comincerà la versione live del suo programma. Sì, yeah. Non assicuro di essere sempre dal vivo o viva, perché anche l'altra volta era la puntata ufficiale, la prima che ho fatto su Cat Power, però l'ho caricata in remoto perché comunque non potevo esserci, però insomma avevo un po' lo stage fright, no? La paura del palcoscenico, e stasera la devo affrontare. E tutti i partecipanti della 240esima puntata del Coxo ti mandano tutta l'energia. Merda. Coxo. Anche qui negoziando tra i vari orologi. Il mio dice 57, quello ufficiale. E quindi Greenwich. Cosa facciamo? Mettiamo lui il secondo pezzo, salutiamo e mettiamo il secondo pezzo di DJ Cortellafa, anche perché sennò continuiamo. Ma ce la facciamo la pubblicità? Poi non avete visto la maglietta di DJ Claudia Electronic? Rock and roll. Poi Stefano gli fa una foto. Esatto. Dopo la vedrete su Cox. Allora, che brano mettiamo, Mister DJ secondo ospite? Oddio, già una pausa così non è molto radiofonica. Quindi ci salutiamo? Alessandro Scilitani, direttore artistico del Reggio Emilia Film Festival. Reggio Film Festival, hai sbagliato? La doppia gaffa è stata questo e anche il nome di Claudia, che non mi sono sentita in coraggio di dirlo. Sì, va bene, ok. E andiamo con i saluti. Ciao! Ciao! È stata la 240esima puntata di Coxo Spaziale e siete stati belli. Tonight.